Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Riferimento alla Car Jihad era già insito nei proclami del portavoce dell'autoproclamatosi Stato Islamico. Forse comprendiamo un po' meglio adesso cosa vuol dire Satana sciolto dalle catene, perché questi sono i suoi figli. Non è l'atto di un folle, sono atti di bastardi che hanno le idee molto chiare, che vogliono seminare paura, che trovano terreno fertile in una Unione Europea governata da conigli o da venduti. Io dico solo che questo non è più terrorismo, questa è guerra, e alla guerra si risponde in maniera conseguente. Signori, non so se mi faccia più tenerezza Don Livio Fanzaga, che vede il demonio dappertutto, o il signor Alfano con la sua Car Jihad. No, ma io non so se vi rendete conto, la Car Jihad, car da car macchina, o in questo caso camion, la Car Jihad. Cioè, utilizzare i mezzi, la Car Jihad. Ma Alfano, ma che è? Il riferimento alla Car Jihad era già insito nei proclami del portavoce dell'autoproclamatosi Stato Islamico. Oh, mamma mia. Sono le 6:31 minuti, signori, è lunedì. Buongiorno, riparte una settimana di 24 mattino. Siamo in diretta fino al 29 luglio. Fatemi salutare tutta la comunità di Ripateatina in Abruzzo, dove sono stato 3 giorni magnifici per il premio Rocky Marciano. Viva Ripa, viva gli arrosticini e la porchetta. Eh sì, i vegani a Ripa, non lo so se hanno vita dura, dico solo questo, hanno vita dura. Va bene, signori, allora devo dare una comunicazione, sono le 6:31 minuti di questo lunedì 18 luglio, non è ancora successo nulla di grave così, in Italia. Nel mondo invece, purtroppo, negli Stati Uniti ancora registrati, ci sono stati 3 poliziotti uccisi, nel giorno in cui si apre la convention repubblicana con Trump. E poi, insomma, scampoli di quello che è successo a Nizza ancora. Oh, ci sono 5 italiani dispersi, cioè un po' di più, ma per 5 di loro pare che le speranze si assottiglino per trovarli, di ritrovarli vivi. C'è la vicenda Turchia, insomma un mondo un po' in subbuglio, mettiamola così. Allora, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Uno apre i giornali, cosa trova? Il disabile picchiato così senza alcun motivo a Olbia. Tutto messo in video, tutto messo in rete, perché ormai siamo in una società in cui si deve vedere tutto, anche uno che fracassa la mandibola di un ragazzo e poi chiede più o meno scusa. Forse l'avete visto il video, è così, lo prende, lo picchia, ginocchiate, pugni. A capi! Mala tempora currunt, signori! 6 e 33 minuti. Allora saluto Peter Bescapel, alpino, è tornato dalle ferie! Ed è in regia Lorenzo Nespoli in redazione. Oh, io voglio salutare Flavia Perina! Buongiorno! Buongiorno! Oh, finalmente una voce squillante che fa un po' il contrasto con i tempi che corriamo, E bisogna tirarsi su per forza, perché esatto, il contrasto con i tempi che corriamo, se no ci schiaccia. Bisogna tirarsi su. Svegliarsi presto, leggere i giornali e tirarsi su. E tirarsi su di morale. Non so come faremo con un interista come Alessandro Robecchi, che torna alla grande. Alessandro Robecchi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Perina, buongiorno Milan. Buongiorno, dillo meglio. No, basta così, va bene, dai. Di anche forza, Milan. Forza, Inda! Sì, va bene, va bene. Allora, siamo qui, il Parlamento può aprire alle 6.34 minuti. Io non lo so neanche da dove cominciare con tutte le cose che posso. Il Parlamento può aprire, ho detto Peter Bescapè, il Parlamento può aprire. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Ufficialmente, non lo so. Caro Alessandro, che da un po' che manchi. Eccolo qua. Non so da dove bisogna partire. Qui c'è l'America, la Turchia, il golpe fallito, la Turchia che accusa l'America, l'America che c'è dietro un golpe, voglio dire, questa è una cosa già sentita nella storia. Una volta li sapevano fare, però, No, adesso dice. No, se vengono accusati, io non, come dire, non credo in questo caso, però non ho gli elementi. Però visto che vengono accusati, quello che viene da dire è una volta gli riuscivano, quindi diciamo non credo che, cioè mi sembra un'accusa questa di aver organizzato il golpe lì, di insomma un po' sì, peregrina, diciamo, intanto un po' senza pezzi d'appoggio, no? Certo che a pensare male si fa peccato, eccetera, eccetera. Però è anche vero che il tentativo mi è sembrato un po' maldestro, un po' goffo sì, diciamo, no? Lievemente. E quindi, insomma, certo che la situazione è, perché l'altra versione è anche questa forse un po' esagerata, cioè Erdogan si è inventato un po' tutto, ha trovato il pretesto per fare adesso una stretta come se non ci fosse già sulle libertà, sui diritti civili. Anche in questo caso, se fosse stato lui, è stato molto bravo, perché gli è andato tutto liscio, proprio dritto. Io credo che ci sia una via di mezzo, insomma, che lui non l'abbia esattamente organizzato, ma che ha preso la palla al balzo. Questo sembra, però è interessante, almeno da quello che si legge. No, ma certo, è interessante capire, però Flavia Perina, diciamo sempre Ankara Europa o Istanbul Europa, è una questione sempre più aperta. E voglio dire, abbiamo alle porte un paese che qualcuno vuole fare entrare in Europa, che vorrebbe entrare, che consideriamo Europa, che l'America ancora oggi ribadisce con il segretario di Stato Kerry, è un paese amico, è un paese nostro alleato nella NATO, eccetera, eppure succedono cose del genere. Come dovremmo comportarci? Il vero paradosso, io penso che sia il fatto che ci si è ritrovati in tantissimi e tanti soggetti politici, anche persone che hanno la consapevolezza di ciò che avviene, a tifare per 4 ore per i golpisti, una cosa che 30 o 40 anni fa era inimmaginabile. Mentre invece in questa circostanza un po' tutti hanno aspettato gli eventi In cuor loro si è avuta la chiara sensazione che anche le grandi potenze, anche l'America, tutto sommato, se il golpe fosse riuscito, sarebbero stati in qualche modo lieti. Questo dice quanto Erdogan e quanto il governo turco sia diventato un elemento diciamo poco affidabile, destabilizzante in diverse aree, nell'area europea, nell'area medio orientale, nelle relazioni internazionali, e dovrebbe proprio anche farci riflettere su quelli che sono stati fino adesso i nostri comportamenti nei confronti della Turchia. Quando non è vero che recentemente la si voleva fare entrare in Europa, quando avrebbe potuto entrare in Europa 20 anni fa, quando si cominciò a parlare del processo di avvicinamento europeo della Turchia e quando in Turchia venivano fatte le riforme, abolita la pena di morte, instaurato un regime più democratico, con grandi passi avanti anche di tipo sociale. L'Europa ha tenuto chiuse le porte, chiedendo esami sempre più difficili, sempre più complessi. Sì. Poi a un certo punto la Turchia ha nettamente cambiato linea, ha visto che dalla quella parte non ce n'era e si è rivolta verso est, dall'altra parte. E questo in questo momento può provocarci veramente dei problemi grandissimi, anche perché nessuno capisce che cosa c'è nella testa di Erdogan, se questa crisi con l'America sia una cosa vera o una cosa finta, se ci sia oggettivamente un cambio di posizioni nelle relazioni con la Russia, nelle relazioni con la Siria. Non lo sa nessuno, non c'è un analista che sappia dire. No, è chiaro, sicuramente una stretta sui diritti civili, questo sì, questo si sta registrando in Turchia dopo. Una qualcosa in più, perché qualche migliaio di magistrati arrestati è qualcosa in più di una stretta sui diritti civili. Una vera repressione, insomma, Alessandro. Sì, no, è che assomiglia a un golpe vero. Un golpe. Questo ha dato adito ai sospetti, a dire, ha creato le condizioni per poi dire: vedete, devo reagire così. Insomma, invece a me la questione che mi ha colpito, sempre per parlare invece di Nizza, una cosa che è più vicina geograficamente, non che la Turchia sia lontana, visto che ci coinvolge davvero da vicino, ma insomma Nizza ci coinvolge anche più umanamente per le vittime che abbiamo visto, le modalità. Adesso c'è un grande dibattito. Adesso, Robecchi, non perché l'ha detto Brunetta, questo è giocare facile, lo so che non ti è simpaticissimo, eccetera. Però io, anche tutti questi politici che dicono siamo in guerra e alla guerra si risponde con la guerra, sì. Quindi, cioè, nel senso, da un politico dice quindi ma infatti, infatti è una può essere che siamo in, può essere anche che siamo in una guerra strana contro questo terrorismo. Ma no? C'è ovviamente uno scontro in atto, in un certo senso veniamo attaccati come vennero attaccati gli Stati Uniti l'11 settembre, c'è sicuramente una guerra in corso, ma è una guerra talmente asimmetrica, una guerra appunto di terrorismo, diciamo così, un attacco terroristico globale, se vuoi. Per carità, a cui noi esattamente non sappiamo come rispondere, se non difendendoci, stando un po' più attenti, alzando i livelli di allerta. Però io credo che dire c'è una guerra sia come accorrere con le taniche di benzina quando c'è un incendio. Però no? Attenzione, senti qui la risposta, per esempio. Guarda, la vedo pagina 2 di Libero. Pietro Senaldi ha intervistato Alfano, quello del Car Jihad. E ha previsto tutto contro gli imam che predicano la violenza, eccetera. Mi anticipi questa cosa? Beh, sto studiando il DASPO. Il DASPO. I criminali, che non funziona per gli ultra del calcio. Però magari funziona col DASPO. Cioè l'imam, ti immagini l'imam che presenta i documenti e c'ha il DASPO. Ma lei che ci fa in questa città? C'ha il DASPO lì. Non lo so, vabbè, mi sa. No, io credo che visto oggi ho letto su che il Corriere usa uno stranissimo neologismo per questo terrorismo, che è uberizzazione. Mentre altri usano franchising, i lupi solitari, i cani sciolti, le schegge impazzite, è davanti a un, diciamo, balordo come quello di Nizza, che insomma era uno che menava la moglie, che frequentava piccoli delinquenti, insomma, come dire, quel sottobosco che c'è in tutto il mondo, no? Diciamo così, di di mezzo disagio e mezzo delinquenza, no? E quelli, quelli lì come li fermi? Non è che hanno i carri armati, non hanno i generali. A volte non ci sono gli avvisagli. Allora pare, almeno così dice il ministro dell'interno Val, adesso hanno scoperto che forse si è, come dire, addirittura radicalizzato in 15 giorni. Cioè in 15 giorni pare non abbia più voluto bere, si è fatto crescere la barba, abbia contattato delle persone, insomma, vicino, almeno così si legge sui giornali, però, no? Sai Milan, quello che si scopre dopo, come dire, conta relativamente, perché dopo, facendo le indagini ovviamente e conoscendo il soggetto, ovviamente viene sempre fuori qualcosa. Il problema è che dovrebbe venire fuori prima e in quelle circostanze, cioè avendo a che fare con delle schegge impazzite e solitarie, o più o meno solitarie, diciamo, sì, cellule molto piccole, è difficilissimo fermarle. Chiaro. Cellule più o meno solitarie. Flavia Perina, che dobbiamo fare? Perché se c'è una guerra, è una guerra di tipo strana. In questa cosa siamo in guerra, la Car Jihad, cioè devono andare a fare, non so, i titoli dei film, i titoli delle serie televisive, non quello che stanno facendo, cioè cose importanti. Ministri, gestire l'ordine pubblico, sono veramente parole in libertà di cui tutti si sono stufati. Tanto dire siamo in guerra, cioè dici che è il nemico, la guerra per come la intendiamo noi è una cosa dove noi siamo da una parte e un nemico dall'altra. Qua, posto che sono stati individuati alcuni nemici, cioè gli stati come tutta la fascia del Golfo, l'Arabia Saudita e il Qatar, che in qualche modo finanziano e sono dietro a questa guerra, non si capisce perché non si addivenga a decisioni, no? L'Iran è stato sotto embargo per 20 anni, allora se uno dice siamo in guerra e mette questi stati nella lista dei paesi canaglia e si regola come ci si è regolati in passato in questo genere di situazioni. No, l'ho scritto anch'io su Facebook, sono contento perché così non sarò l'unico insieme a Flavia Perina quando verrà una principe saudita a chiedermi conto, a bussarmi alla porta. Non chiede conto, questi vengono in Europa, si affittano le spiagge, ci cacciano fuori dai luoghi storici, E quell'immagine, quell'immagine l'avrai vista anche tu, quella immagine. Io l'ho messa su Facebook, lo yacht del principe saudita. Hai visto le donne fuori dall'Arabia Saudita come vengono considerate? E questo ce la dice lunga su quanto c'entri la religione in questa vicenda, è il catalizzatore di molte cose, è la scusa, l'alibi dietro la quale si mette altro dei desideri di conquista, la penetrazione in Occidente di grandi potentati economici, finanziari, degli stati del petrolio. Dopodiché sentir dire Jihad Khan siamo in guerra, sono 10 anni che dicono siamo in guerra, prendessero delle contromisure, scegliessero una linea politica nei confronti di tutto questo. Si stanno comprando le nostre città, cioè non è che c'è solo quello col camion, metà dei grattacieli di Milano sono di queste persone. Infatti io dico viva la Cina, diamo l'Inter alla Cina, i cinesi sono un po' più pacifici, sono colonizzatori anche loro. Però quello aspetterai a dire. No dai, Robecchi, sono un vorrei, po' più... No, vorrei, sono perfettamente d'accordo, cioè abbiamo un problemino. Voi vi ricordate ovviamente quando c'era il terrorismo in Italia, che si diceva bisogna prosciugare l'acqua dove nuotano i terroristi, ricordate, no? Sì. In questo caso l'acqua, l'acquario in cui nuotano i terroristi sta seduto su montagne di milioni, trilioni, bilioni di dollari. Noi attualmente ancora vendiamo allegramente armi all'Arabia Saudita per bombardare lo Yemen, per esempio. Esatto. E questo è come dire. Però perché con l'Iran, giustamente dice Flavia Perina, questo discorso è stato fatto, con l'Arabia Saudita no? Perché con l'Iran l'America e gli Stati Uniti subirono un attacco frontale con la presa di ostaggi all'ambasciata e quello creò una crisi per cui lì si alzò veramente un muro. E poi l'Iran probabilmente a quei tempi aveva, diciamo, relazioni economico-finanziarie meno strette di quello che hanno oggi. Però io vorrei dire un'altra cosa che riguarda noi e non loro. Noi. Io mi sono ritrovato senza volere, proprio senza quasi pensarci, questa volta su Nizza a fare un po' di obiezione di coscienza, nel senso che non ho voluto guardare o approfondire tutto quell'aspetto emotivo, la foto, la bambina, la bambola, o poverino doveva sposarsi il giorno dopo, oppure era appena arrivato cronaca trattino retorica trattino emotività che si sprigiona in questi casi. Io per carità lo capisco, sia giornalisticamente che umanamente, per carità, non voglio fare il cinico, però su questa cosa, secondo me, bisogna incominciare a pensare un po' più razionalmente. Bravo. Ecco, cioè, pensiamo un po', bello, siccome siamo abituati in politica alla pancia del paese, cioè gli istinti, eccetera, eccetera, ecco, in questa cosa qua, che riguarda le nostre vite quando andiamo in giro, diciamo così, vorrei un po' più di cervello e un po' meno di pancia. Sì, un po' più di freddezza, che non vuol dire distacco, non vuol dire non dare giusta importanza alle cose. Però no, vuol dire proprio meno... starci con la testa, no? Esatto. Perché alzarsi la mattina e dire cacciamoli tutti, come anche i figli, via il passaporto a tutti i magrebini, e tutte queste robe qua. Ha detto Paola Ferrari, questo mi ha colpito, Paola Ferrari della RAI, ecco. Ma perché Paola Ferrari propone una cosa? Non so, aspetta, sospendiamo tutto, perché Paola Ferrari propone una cosa del genere? C'è il traffico, io devo meditare un attimo su questa cosa di Paola Ferrari, non l'ha detto un capo, non l'ha detto Trump! Ah no, l'ha detto anche Trump. Vabbè, ma insomma, l'avesse detto Trump, uno dice, almeno concorre per una carica importante. Ma perché Paola Ferrari? Vabbè, il traffico. E vai col traffico! Ma è così impossibile togliere la cittadinanza a uno che va a combattere per un altro Stato? Con cui io non sono assolutamente in guerra? Perde i diritti di cittadinanza! O viene arrestato alla frontiera o viene spedito al mittente! Ma perché la Francia? Perché la Francia, è vero, c'è il radicalismo interno, ma signori, non ci dimentichiamo la politica estera di Sarkozy, quello che è riuscito a fare in questi anni e quello che ha prodotto come instabilità in tutta la parte nordafricana del nostro pianeta. Li fermiamo come abbiamo fermato i giapponesi quando si sono fatti esplodere con gli attacchi kamikaze con gli aerei. Non tutti gli islamici sono terroristi, ma guarda caso tutti i terroristi sono islamici. Va bene, questa è la nostra segreteria. Attenzione però sempre a dire la politica estera è importante dei paesi, e Gheddafi, e il Chad, però hanno colpito anche Bruxelles, il cuore dell'Europa, cioè io non credo, Flavia, io non so, magari mi sbaglio, ma non credo che abbiano bisogno alcune persone di vedere la politica estera, credo che alcune persone impazzite, terroriste, ci vogliano colpire. Anche perché ci considerano banalmente degli infedeli. Questa è la mia teoria. Ma sai che su questo dichiarare guerra a 1,5 miliardi di musulmani nel mondo è semplicemente ridicola. Assolutamente. Avremo il sangue per le strade, quindi diciamo chi sostiene questa tesi è da ricovero. L'idea che la politica estera sia importante è altrettanto centrale. Noi sono 10 anni che l'Occidente si occupa solo di economia, di spread, di borse, di cose di questo genere, con l'idea che la storia fosse finita. No, c'era quella vecchia tesi di Fukuyama 20 anni fa, ci penserà il mercato perché la storia è finita, ormai non c'è più conflitto, non c'è più la guerra fredda e andiamo verso la pace e il benessere universale. Era una stupidaggine col botto, bisogna ricominciare, bisogna che i governi ricominciano a interessarsi di grandi dinamiche anche di politica estera, perché queste si tireranno dietro l'economia, perché i fenomeni economici dei prossimi 10 o 20 anni saranno legati a questa roba qui. La globalizzazione non può reggere in questo contesto, non regge la globalizzazione in un contesto in cui tu esci per strada e può arrivare un pazzo con un camion o un altro col mitra o quelli con le cinture esplosive e ti fa saltare per aria. Quindi è una cosa, secondo me, proprio da rivalutare quello che è lo studio geopolitico delle cose e l'attenzione alle scelte del governo e riprendersi in qualche modo anche le chiavi di casa. L'Europa è stata oggetto e non soggetto della politica estera degli altri, degli americani e di Putin. O si ripiglia le chiavi di casa o continuerà, o sarà il terreno di questo scontro e di questa guerra asimmetrica. Allora, intanto voglio salutare tanti ascoltatori che ci mandano i messaggi al 349-238-6666, in particolare una sorridente ragazza che ci spedisce anche la foto a dire saluti da Kayseri, ridente Turchia, insomma ridente Turchia, interessante quello che succede lì. Sai che Robecchi è stato usato un altro neologismo oggi sui giornali, no? Lo ha detto il presidente, il ministro dell'interno francese Val, ha detto non trumpizziamo l'Europa. È bella, mica male. Nel giorno in cui tra l'altro inizia la convention americana repubblicana, la convention repubblicana, e nel giorno in cui ancora sparatorie e 3 poliziotti uccisi in Louisiana. Anche questo è un bellissimo neologismo, però sempre dal punto di vista dello starci con la testa, diciamo, e di non cedere all'emotività del momento, ha perfettamente ragione la Perina che bisogna ricominciare a parlare di politica e a fare politica internazionale invece che stare a guardare. Ma prima della trumpizzazione c'è stata la bushizzazione, la blairizzazione, e noi diciamo che tutti amici tuoi, lo so che tu ci passeresti una cena, questa catena di orrore è una cosa che parte da Bin Laden, si chiama Bin Laden, si chiama Bush, si chiama Blair, si chiama Califo. Però non li mettiamo sullo stesso piano, dai. Perché non li mettiamo sullo stesso piano? Siamo peggio noi. Se contiamo i morti civili, Bush e Blair ne hanno fatti di più. E poi vorrei dire un'altra cosa. Ma non possiamo cosa. Metterli, cioè persone comunque elette democraticamente, persone elette, si ammazzano un milione di persone, sono più brave delle persone non elette, ma che dici? E poi un'altra cosa che vorrei tenessimo a mente, la maggior parte delle vittime del jihad, car o non car, è musulmana. E oggi quelli che combattono in prima linea con lo schioppo in mano, non a parole, diciamo, l'ISIS, sono musulmani. I curdi del Rojava sono musulmani. Gente che va lì in prima linea a liberare le città con lo schioppo in mano. Quindi attenzione a fare le categorie, perché sia se contiamo i morti e sia se contiamo chi li sta veramente combattendo sul campo, sono musulmani anche loro. Quindi è una guerra, diciamo così, di pochi deficienti contro il mondo e non dei musulmani contro di noi. Su questo sì, altrimenti torniamo alle crociate, le abbiamo già fatte, quindi non hanno portato grandi lumi. Allora, però ha parlato, non è vero, questa che scrivete, sapete che Robecchi scrive anche sul Fatto Quotidiano, il titolo oggi del Fatto Quotidiano, non è vero che il ministro Boschi ha detto per portare, diciamo, voti al sì al referendum, che peraltro forse verrà spostato a fine novembre, ormai non si sa manco più quando, di che anno l'hanno detto. non si sa, questo non lo stabilirà certo peraltro Renzi, ma non è vero che ha detto abbiamo bisogno di un'Europa più forte in grado di rispondere al terrorismo internazionale, all'instabilità, e per riuscirci ci vuole una costituzione più credibile in Italia. No, non ci credo. Non è possibile, Flavia Perina. Quindi votate sì. Ma io vi chiedo questa cosa. Non è vero. Io vi chiedo questa cosa, amici. Ma quante volte nella vostra vita avete detto non è possibile e poi era vero? È successo ed era già successo. Nel momento in cui lo dite è già successo. Dovevo fare una rubrica cose che non credevamo possibili e invece lo erano. Forse sulla settimana enigmistica l'hanno già fatta. Forse non sapevamo che una roba. C'è una frase di Flaiano che dice: l'Italia è il paese in cui si ride ritenendo le impossibili di cose che poi succederanno. Sì. No, ma questa non è vero. Questa non l'ha detta. È una classica disinformazia del Fatto Quotidiano. Non sarà successo. Leggo delle virgolette. Però. Ci sono delle virgolette. Ma io l'ho letta con i miei occhi ieri, purtroppo è così. L'ha detto per un'Europa più forte, in grado di rispondere unita al terrorismo internazionale, all'instabilità, ci vuole una costituzione. Votate sì. Insomma, votate sì, vi portano anche gli arrosticini. Sì, secondo me anche la porchetta di ripa teatina te la portano così. Per i vegani ci stiamo attrezzando, delle verdure ottime fanno anche a ripa. Vabbè. Allora, io nel salutarvi voglio ricordare, visto che si avvicina l'estate, non lo dico perché sono un paraculo, non lo dico anche se lui è interista, ma no, lo voglio consigliare perché poi ce l'ho fatta a leggerlo. L'ultimo, Di rabbia e di vento di Robecchi, è l'ultimo romanzo, davvero. Vero, bello. È una lettura che consiglio per l'estate. Ma bravo Milan. Grazie. Dai, da buongiorno Milan, bravo Milan, è un passo, dai, urlalo, liberatorio, urlalo, forza Milan una volta. E non ce la fate, va bene, dai. Allora abbraccio Alessandro Robecchi, un abbraccio a Flavia Perina e alla prossima. Grazie a tutti. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Guardate che la 168esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata, cari ascoltatori. Siamo qui alle 7:18 minuti, pronti a leggere i giornali con voi. E allora vediamo di che cosa si occupano oggi. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Lunedì 18 luglio, intanto i titoli, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata ai tempi biblici della giustizia italiana, giustizia civile in affanno, 3 anni per un processo, questo è il titolo di prima pagina. E poi quello che è successo in America con l'uccisione di 3 agenti di polizia proprio nel giorno in cui si apre la convention repubblicana. È l'apertura per il Corriere della Sera. La polizia USA sotto attacco. Per Repubblica, USA, altri 3 agenti uccisi, Trump contro Obama. La tragedia americana anche per l'Unità. La Stampa, uccisi 3 agenti, l'ombra della violenza sulle elezioni USA. E anche il giorno, USA caccia al poliziotto. Mentre per Il Messaggero, USA torna la caccia al poliziotto, come vedete titolo simile. Il Giornale invece, in ostaggio 50 atomiche, caos turco, sono gli ordigni nucleari che Ankara custodisce per la NATO. Libera invece un'intervista a Alfano, l'immigrazione è una bomba, poliziotti super armati sempre. Questo il leader di Nuovo Centrodestra promette in questa intervista. Allora vedremo, poi c'è l'apertura anche del Fatto Quotidiano, eccola qua, è dedicata alla Boschi. La Boschi delira, nuova carta per combattere il terrorismo, questo è il titolo di prima pagina. Ma voglio partire dal canone della RAI, la tassa che voi tutti amate, lo sappiamo. Peter Bescapè, non fare quella faccia, hai pagato il canone della RAI tutti gli anni precedenti? Sì, quelli futuri? Sì. Bene. Allora, come sapete è mese di luglio, arriva la bolletta della luce, quest'anno c'è la grande novità, canone della RAI, 70 euro, un po' meno rispetto all'anno scorso, ma da pagare con le polemiche annesse allegato alla bolletta elettrica. E fa sapere il Sole 24 Ore in prima pagina con Maurizio Di Rocco e il commento di Saverio Fossati. E questo fa sapere, sapete quante famiglie prima non pagavano il canone della RAI per una ragione o l'altra, con una scusa o l'altra? 16 milioni di famiglie su 23 non pagavano il canone della RAI, mentre ora le dichiarazioni di esenzione, perché bisognava mandarle per evitare le duplicazioni, sono state solo 817.000. Ma come? Questo potrebbe voler dire, il condizionale ovviamente d'obbligo, che molti evasori hanno deciso di pagare, insomma di non proseguire con l'inganno. La stima dei maggiori incassi è prudente, 500 milioni, ma il bilancio finale si potrà fare solo tra un mese, una volta pagate le bollette che stanno arrivando proprio in questi giorni. Comunque il canone della RAI, fa sapere tra l'altro il Sole, per il canone rimborsi ostacoli dopo la bolletta. Manca infatti ancora il provvedimento delle entrate sulla procedura e comunque vedremo quanto e se ci sarà un aumento degli introiti per questa tassa. Mentre voglio concentrarmi ora, visto che arriva l'estate, siamo già in estate, molti di voi sono in vacanza, alcuni lo saranno tra poco, su 2 pagine della Stampa dedicate a un annoso dibattito che viene rilanciato proprio in questi giorni e non casualmente. E cioè, Italia, troppi turisti, alcune città vogliono il numero chiuso. Dalle Cinque Terre a Firenze, da Venezia a Capri, il governo apre a un piano per regolare i flussi. La chiama semplicemente così, racconta Marco Menduni sulla Stampa, pagina 16. Una ZTL C'è una zona traffico limitato per i turisti, con tornelli, sorveglianti, badge elettronici. È quello che vorrebbe il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ci prova fin dal giorno dell'insediamento, il 15 giugno dell'anno scorso, a gettare il tema sul piatto. Turismo a numero chiuso. Numeri contingentati, stop al mordi e fuggi che porta solo spese, fastidi, poco reddito alla città dove il rapporto tra visitatori e residenti rischia di diventare conflittuale, parole di Brugnaro. Però ammette di avere le armi spuntate, il sindaco di Venezia dice: oggi non si può, si va a confliggere col diritto di movimento dei cittadini che possono andare dove vogliono. E dunque il tema del turismo a numero chiuso torna alla ribalta in un'estate dove tutti gli indicatori rivelano cifre da boom per i luoghi simbolo d'Italia. Il mondo si è ristretto, le turbulenze internazionali convincono sempre più italiani a restare in Italia, sempre più stranieri ad arrivare nel nostro paese. E allora ecco le percentuali, i numeri del 2016 rispetto a quelli già generosi del 2015. Venezia fa registrare un più 5% di turisti, Firenze un più 5,6, Capri più 9, le Cinque Terre in Liguria più 20%, insomma numeri molto alti, un'invasione che stimola l'appello concorde ai sindaci a dire: il successo rischia di trasformarsi in un boomerang. Ci sono già esperienze come Pompei, che ha introdotto il limite degli accessi, il Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano, il Colosseo, che non accoglie più di 3.000 visitatori alla volta, l'Oasi di Biderosa in Sardegna, accesso a 130 auto al giorno, il Parco Nazionale dell'Abruzzo, con 50 persone al giorno nei festivi, o meglio nei feriali, 80 nei festivi. Insomma, esperienze ci sono e qualche primo cittadino, Brugnaro in testa, ne chiede di più. La Stampa racconta a fianco a questa vicenda la storia dell'isola di Santorini in Grecia, una delle isole più belle, una delle mete per molti turisti, l'isola greca che limiterà lo sbarco dei croceristi a partire dal 2017, cioè non più di 8.000 al giorno. E invece le Baleari scelgono la tassa di soggiorno a scaglioni. Insomma, il tema è sul piatto per molte località turistiche. Oh, qui invece deve entrare a livello di cronaca italiana ad alcuni episodi, due nello specifico, che sono stati veramente nel weekend oggetto di molte riflessioni, oggetto di molti commenti sui giornali, in particolare quello che è successo in Sardegna, Olbia, dove c'è questa aggressione resa ancora più terribile perché tutto, come è la moda odierna, viene ripreso da un telefonino, viene divulgato. E di che cosa si parla? Di questa aggressione a una persona disabile psichica, una persona con disturbi cognitivi, un amico, tra virgolette, di una compagnia, della compagnia, con a un certo punto una persona che lo picchia, pare senza alcun motivo, e lo picchia in maniera brutale con pugni, ginocchiate alla faccia, tanto che questa persona aggredita si ritrova in gravi condizioni con la mandibola fratturata. Alberto Pinna racconta: ti ammazzo di botte, in rete le immagini del disabile picchiato a Olbia, sono sul Corriere della Sera pagina 27. Guarda come lo picchio anche con un braccio solo, scorrono su Facebook le immagini. Un ragazzotto ha un braccio fasciato e con l'altro bastona Luca, che lo guarda stupito. Fa per proteggersi il volto e non reagisce, ma l'altro non si ferma, lo afferra per i capelli, gli sbatte la testa sul cofano di un'auto, gli assesta ginocchiate in faccia e inveisce: con una mano sola ti ammazzo. Non si ferma neanche quando lo vede a terra, un amico grida: lo hai fatto entrare in coma. Il video su Facebook si chiude così. E va in rete un'aggressione crudele, senza senso, brutalizzato da amici, ovviamente tra virgolette amici, per mettere la scena sul web, una sorta di bravata da bulli. Luca, 37 anni, è disabile fin da bambino, in cura da 15 anni per gravi deficit cognitivi, invalido al 90%, il fratello lo definisce così, buono, ingenuo, fragile, non sa valutare i pericoli, incapace di far del male e di difendersi. Mentre il suo aggressore, il giorno dopo su Facebook fa una lettera tardiva, parziale, nella quale scrive: chiedo umilmente scusa al ragazzo a cui ho fatto del male, ma sottolineo, non è un invalido. Eppure è stato denunciato Bachisio Angius, 36 anni, denunciato dai carabinieri per lesioni gravi e violenza. E pare che tutto sia nato così. Sabato sera, con questo ragazzo disabile, questo uomo uscito con quelli che riteneva amici, e qualcuno prima dell'alba, fuori da un locale, dice: divertiamoci con Luca. Parte così, senza motivo, senza neanche un pretesto. Botte e riprese col telefonino. Scene di una notte brava da esibire sui social network. Ovviamente, come dire, i commenti sono superflui, che bisogna dire tutto immortalato. E qui invece questa notizia di cronaca, un'altra notizia di cronaca terribile, è su Repubblica, è la notizia che mi fa pensare della giornata, la notizia da mani sul volante. Attenzione, perché purtroppo quando accadono queste cose, e ci vuole sempre equilibrio nelle reazioni, equilibrio che in Italia non c'è, ma ci sono tutti gli ingredienti per fare accendere le consuete polemiche, anche legittime da un certo punto di vista, perché riguarda la vicenda di uno stupro, e lo racconta Repubblica: Roma, sedicenne violentata ai Parioli. Viene messa in prima pagina notizia, c'è solo su Repubblica. Federica Angeli racconta di questo stupro nel parco Villa Ada con una sedicenne che denuncia: sono stata trascinata in una baracca da due nordafricani e abusata a turno. Queste persone poi sono state arrestate dalla polizia e, racconta Repubblica, sono stati due presunti stupratori, due tunisini di 26 e 30 anni, ancora sdraiati sui materassi logori, fermati, stavano fumando, quando gli agenti hanno fatto irruzione in questa baracca. Ammanettati, portati al commissariato Viminale, dove già erano stati segnalati per un'aggressione a una ragazza alla stazione Termini. Ora si trova in stato di fermo per violenza sessuale aggravata in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. Repubblica lo mette in prima pagina: Roma, sedicenne violentata ai Parioli. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta, tanti salumi italiani buoni, gustosi e già affettati. Alessandro Milan che fa il conduttore, sono cose che capitano, sono cose che capitano, perché in questo paese quando le cose capitano è pieno di gente che dice sono cose che capitano. E va bene, allora alle 7:33 minuti, cari amici, mandateci le sigle al 349-238-6666, soprattutto in audio, WhatsApp. Allora, dobbiamo parlare di Nizza, dobbiamo parlare della Turchia con il golpe, dobbiamo parlare, almeno questo raccontano i giornali, di quello che è successo in America con altri tre poliziotti uccisi. Insomma, un mondo in cui succedono soprattutto cose brutte negli ultimi tempi, nelle ultime 72 ore ancora di più. Intanto Nizza. A Nizza c'è da registrare che a distanza di tre giorni ormai non si sa nulla anche di del destino di diverse persone che sono state travolte dal camion di questo terrorista Mohammed Boulel. Ci sono anche cinque italiani di cui non si sa nulla, dispersi. Il Messaggero racconta con Mauro Evangelisti la situazione confusa ancora in Francia. A pagina 13 del Messaggero: incompleta la lista dei morti, paura per cinque italiani dispersi. La console dice: mancano notizie ufficiali, per esempio dov'è finita Carla Gaveglio, 48 anni, la figlia l'aveva vista caricare sull'ambulanza, niente. E ancora, da Voghera erano arrivati Angelo D'Agostino, 71 anni, e la moglie Gianna Muset, 68. Niente. Con loro si è scoperto c'erano due amici, Mario Casati, 90 anni, originario di Besana Brianza, e Maria Grazia Ascoli, 77 anni. Anche di loro non si sa più nulla e cresce ovviamente l'apprensione. Quindi di queste cinque persone che ho citato non ci sono notizie dalla Francia, notizie ancora confuse. Ma d'altronde confusa è la situazione in generale, anche per esempio il Movente, si è parlato molto, pazzo persona che non aveva collegamenti con i terroristi islamici, persona che invece si era radicalizzato ultimamente. Ci sono misteri e ci sono ovviamente nebbie attorno alla figura di Mohamed Boulel, che secondo Alessandra Coppola, Andrea Galli e Guido Limpio, che scrivono in tre questa inchiesta per il Corriere della Sera, pagina 14, è stato colpito da una follia, sicuramente una follia che diventa una follia jihadista alla fine di giugno, inizio luglio, una marcia a tappe forzate verso l'obiettivo in 15-20 giorni cruciali, secondo gli inquirenti. Questo uomo si è trasformato da un autista frustrato ad assassino di massa. Ed è in questo arco di tempo così breve, 20 giorni, che si concentrano le indagini. Il terrorista ha pensato innanzitutto a noleggiare il camion a Rieti da 19 tonnellate, poi si è procurato una pistola attraverso la malavita tunisina a Nizza. Secondo una testimonianza anonima, nelle ultime 2 settimane aveva smesso di bere, si era fatto crescere la barba alla maniera dei fedeli islamici radicali, e poi c'è anche questo SMS mandato poco prima di colpire: mandate più armi. E però ci sono anche cose strane, perché le armi che aveva nel camion erano armi fittizie, come erano state definite, e poi ha fatto un selfie prima del massacro, secondo alcuni aveva complici e non ha agito da martire. Secondo Repubblica ci sono i misteri, la bici, le finte armi, l'ultimo SMS, la strage di Nizza diventa un mistero. Ha fatto anche un sopralluogo illogico un paio di giorni prima e il giorno prima, proprio sulla Promenade des Anglais, per fare un giro col camion. In qualche modo Repubblica si chiede: ma chi, per quale diavolo di motivo, un uomo che vive a Nizza e conosce la Promenade come le sue tasche, dovrebbe per ben 2 volte percorrere la strada dritta come un fuso su cui di lì a meno di 48 ore dovrà immolarsi dopo aver fatto strage di innocenti? Insomma, tante domande. C'è anche il mistero su 100.000 euro che poco prima della strage avrebbe spedito, ma non ci sono conferme ufficiali, ai familiari in Tunisia. Il ministro dell'interno Manuel Valls parla, lo fa con il Journal du Dimanche, l'intervista è replicata da Repubblica a pagina 7 e dice: Val, lo Stato islamico attaccherà ancora. I tempi sono cambiati, la minaccia terroristica è ormai una questione centrale destinata a durare. E alla domanda: ma bisogna rassegnarsi a questo? No, nessuno si abitua alla barbarie, alla morte. Ciò che dico ai francesi è che occorre convivere con la minaccia terroristica, ma vinceremo. Riguardo a questo profilo del terrorista nizzardo, chi è? Un franchising dello Stato islamico? Un terrorista ibrido? Sarà l'inchiesta a stabilirlo, risponde il ministro dell'interno francese, ma sappiamo che l'assassino si era radicalizzato molto rapidamente. Poi Val risponde dicendo: l'obiettivo dello Stato islamico è quello di causare divisione, collera, odio di fronte a certe affermazioni indecenti e calunniose. Mentre alcuni cadaveri non sono ancora stati identificati, le vittime non ancora seppellite, le famiglie soffrono, rimango stupefatto e indignato dalle polemiche. Nell'inasprirsi delle posizioni colgo una crescente tentazione di mettere in discussione lo Stato di diritto. E qui il premier francese, o meglio il primo ministro francese, dice: la risposta allo Stato islamico non può essere la trumpizzazione delle mentalità. Ecco, usa questo neologismo da Donald Trump: non dobbiamo rispondere trumpizzando le coscienze. A proposito di ministri, invece, parla anche una lunga intervista a pagina 2 e 3 di Libero il ministro dell'interno italiano Alfano, intervistato da Pietro Senaldi, dice intanto, a guardare all'Islam che vuole in Italia: facciamo controlli molto rigorosi, dice Alfano, abbiamo espulso 7 imam che predicavano violenza, non facciamo sconti e per la sicurezza ho in mente una soluzione drastica. E qual è questa soluzione drastica? Sto studiando un decreto che prevede una sorta di DASPO che tenga lontano dalle città i criminali con precedenti pericolosi. Vorrei che questa legge fosse il provvedimento del governo alla ripresa dei lavori dopo Ferragosto. E tra l'altro dice Alfano, l'Italia non è per niente un paese razzista, è un paese affaticato, indurito da anni di crisi e da certe forze politiche che soffiano sul fuoco. Parla anche dell'omicidio di Fermo, di Emmanuel, parla della Francia, parla di Nizza. Alla domanda rimpiange Gheddafi, risponde Alfano, servirebbe a qualcosa farlo? No, però l'instabilità dopo la sua morte per noi ha significato sbarchi, morti, immigrazione. E come si spiega che finora l'abbiamo scampata? Abbiamo fatto un lavoro di prevenzione straordinario. In un anno e mezzo abbiamo controllato 155.000 persone, eseguito 2.700 perquisizioni su soggetti ritenuti contigui al terrorismo religioso, controllato 33.000 veicoli, insomma snocciola tutti i dati, Angelino Alfano. C'è da dire che il giornale racconta invece di una nuova minaccia proprio all'Italia. Dopo Nizza, sul web altri appelli a conquistare Roma, tracce inquietanti, secondo Luca Fazzo, a pagina 5 del giornale, trovate sui telefonini di jihadisti arrestati, come quelle di un ragazzotto afghano di 23 anni, Hakim Nasiri, catturato a Bari. Nasiri non era un profugo e nel suo telefonino, insieme a crude immagini di esercitazioni qui mitra, erano documentati sopralluoghi meticolosi su una serie di obiettivi possibili come l'aeroporto di Bari, un centro commerciale a Londra e poi Roma, il Colosseo, il Circo Massimo, i bersagli ritenuti dagli inquirenti più a rischio. Colpire Roma, d'altronde, è un chiodo fisso, quasi un'ossessione per i seguaci italiani dell'ISIS. Questo racconta il giornale. In tutto questo, nell'ampia pagina dedicata al terrorismo, c'è questa frase che è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano di Maria Elena Boschi. Ma io non lo so se l'ha detta, ma è un virgolettato, mi pare abbastanza incredibile. Il titolo di prima pagina della Boschi è questo: la Boschi delira. Nuova carta per combattere il terrorismo. Cioè, in un incontro sulla riforma, il ministro Boschi ha declamato: abbiamo bisogno di un'Europa che sia in grado di rispondere unita al terrorismo internazionale. Per riuscirci serve un paese forte con una costituzione che dia stabilità. Insomma, il legame potrebbe essere: per avere un'Europa unita con il terrorismo serve votare sì al referendum. Questo è tradotto in soldoni quello che il Fatto Quotidiano dice del ministro Boschi. Quindi il titolo di pagina 3, la Boschi sfrutta il terrore, votate sì per un'Italia sicura. Va bene, sicura l'Italia, chissà se la Turchia lo è. Certo, lì c'è stato un golpe fallito, tra poco ripartiremo da qui. Prima però è il momento di Mauro Meazza, è lunedì, tra l'altro è il momento degli endecasillabi, ovviamente, Mauro, no? Certo, buongiorno Alessandro. Però c'è un però. Mauro, devo fare questa cosa da radio anni 70, perché vorrei che tu salutassi una persona che aspetta una tua dedica, perché mi ha detto, l'ho conosciuta, Ripa Teatina, si chiama Antonella, ha detto il suo sogno è proprio una dedica di Mauro Meazza, un cenno, un qualcosa, un abbraccio virtuale. Mauro, allora, a te la parola. Guarda, adesso componiamo subito per Antonella una quartina finale. Componiamo così sull'istante. Va bene. Via. Vado a declamare l'endecasillabo del lunedì, commosso per questa manifestazione di affetto. Luglio focoso, già ne fa 18, e s'avvicina il segno del leone, mentre nella casella giù di sotto, con la bolletta, troverai il canone. Perdona la licenza dell'accento, ma serve a rammentare che sul sole, se non era dovuto il pagamento, saprai come reagire, e non son folle. Che se veloce corre lo postino, e nel suo consegnar non c'è malizia, lo stesso non puoi dir, mio caro Alino, del lento migliorar della giustizia. Perché oggi riferiamo con tabelle del civil rito, fonte di mestizia. Eppur, tra tante cose brutte o belle, ora ti voglio dare una notizia. Ed è che fatto tempo, giorni 7, in ferie io sarò, e tu ancora al chiodo. Pensandoti dal mare o dalle vette, non ti ingrazzare, ma sappi che già godo. Tu tieni ben le mani sul volante, leggi il sole, sappi che ti giova. L'esperto ti sarà sì confortante, conoscerai ogni tassa, vecchia e nuova. Ringrazio, infin commosso dell'ascolto, colei che apprezza lo mio dire classico. Ad Antonella va il mio affetto e molto. Per tutti gli altri, vada pure il traffico! Hello, this is George Clooney, and this is my Sciogli Lingua. How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Thank you and goodbye. Goodbye, Mr. George Clooney, sempre fedelissimo ascoltatore di 24 Mattino. Allora, dobbiamo parlare di Turchia, dove c'è stato questo colpo di Stato che poi è rientrato nel giro di 48 ore, anzi meno forse. E in Turchia ora volano le accuse, e ci sono gli arresti, le repressioni. E ci sono anche qui le ricostruzioni di chi dice da una parte Erdogan si è inventato tutto, ha trovato il pretesto per far saltare questo golpe, creare un fittizio golpe e ora intervenire con la mano pesante. Dall'altra parte della Turchia volano le accuse dirette a Washington, e cioè un gran classico: gli Stati Uniti sono dietro al golpe. Quindi capite che la situazione è molto molto in evoluzione e confusa. La Turchia accusa gli Stati Uniti per il tentato golpe. Ora dateci Gülen, che è considerato l'ispiratore dagli Stati Uniti questo fallito colpo di Stato. Sta in Pennsylvania. Fethullah Gülen è un imam. Allora, racconta Repubblica, in Turchia il golpe è fallito, ma dalle ceneri dei militari uccisi nasce ora una crisi bruciante con l'America, perché il ministro turco del lavoro ha detto proprio c'è la mano di Washington dietro a tutto questo, e la risposta americana da parte del segretario di Stato Kerry è irresponsabile accusare un coinvolgimento americano. Questo è quello che sono gli strascichi più pesanti. Peraltro l'intervista al segretario di Stato John Kerry la trovate sulla Stampa, è un'intervista che il segretario di Stato americano ha rilasciato alla ABC a George Stephanopoulos, che è un importante giornalista americano. L'intervista viene riproposta tutta sulla Stampa a pagina 7, e John Kerry dice: crediamo che Erdogan ora abbia il totale controllo del paese, sembra evidente, e dice è un bene che il golpe sia stato sventato. Questo quindi ufficialmente è la posizione di Kerry. Ho parlato 3 volte con la mia controparte, il ministro degli esteri, che verrà a Washington la prossima settimana. Naturalmente ci sono i golpisti che devono rispondere di ciò che hanno fatto e ne risponderanno, ma siamo tutti preoccupati che si alimenti una repressione che vada ben oltre i responsabili del golpe. I turchi devono al contrario consolidare la democrazia e cogliere questo momento per unire la nazione. E poi di fronte alle domande della Turchia, che chiede per esempio l'estradizione di Fethullah Gülen, non c'è stata una richiesta formale. Dice: nella conversazione col ministro degli esteri turco ho ribadito che appena ricevute le prove, cioè le prove, non le accuse, le valuteremo e faremo le nostre indagini. Ribadisce Kerry: la Turchia è un'amica, la Turchia è un alleato, la Turchia è un importante partner nella coalizione che sta combattendo l'ISIS. Ma come tutti sanno, abbiamo standard molto rigidi riguardo alla protezione dei diritti delle persone. Insomma, la crisi diplomatica Stati Uniti-Turchia è molto molto alta. Infatti anche il Corriere titola: alta tensione Stati Uniti-Turchia, riapre però la base anti-ISIS, la base che veniva utilizzata, base aerea, per gli attacchi in Siria all'ISIS. La Turchia è confinante con la Siria e è riaperta dopo momenti di chiusura e di tensione. Per continuare, come vedete oggi i giornali sono molto dedicati all'attualità internazionale, per continuare con le tensioni c'è quello che è successo in America, dove si apre oggi la convention repubblicana che ufficialmente porterà Donald Trump alla candidatura alla Casa Bianca, e c'è stata l'ennesima strage di poliziotti. L'ennesima strage di poliziotti, come raccontano tutti i giornali, 3 agenti uccisi A Baton Rouge ancora fuoco sulla polizia degli Stati Uniti dopo la strage di Dallas 10 giorni fa. È stata una vera e propria imboscata organizzata nella Louisiana, dove il 5 luglio era stato ucciso l'afroamericano Alton Sterling. Le vittime dell'agguato sono 3 agenti, altri 3 sono rimasti feriti, uno in modo grave. L'assassino è morto. Obama ha definito tutto questo opera di vigliacchi che parlano per conto di nessuno e ha aggiunto: faremo giustizia. E oggi a Cleveland si apre la convention dei repubblicani che incoronerà Trump. Questo, insomma, è il clima anche negli Stati Uniti, un clima molto molto pesante. La situazione non è per niente facile. Oh, veniamo alle cose italiane. Ci sono alcuni articoli che vi volevo segnalare. Il primo è questo, riguarda l'immigrazione. C'è il piano Alfano per far fronte alla gestione dei migranti. Dopo le proteste dei sindaci, il ministro dell'Interno studia una redistribuzione dell'accoglienza secondo questo criterio. Ai comuni che aderiranno 50 centesimi per migrante ospitato, sblocco delle assunzioni e l'obiettivo per Alfano è 3 migranti ogni 1000 abitanti. Questo è il rapporto che dovrà essere mantenuto nella redistribuzione. Una distribuzione più equilibrata, racconta Grazia Longo a pagina 10 della Stampa. Distribuzione più equilibrata è di migranti e richiedenti asilo, una media di 2 o 3 per ogni 1000 abitanti. In tutto, chi accetta, appunto, avrà via libera a nuove assunzioni comunali, più soldi nelle casse degli enti locali e meno nelle tasche degli extracomunitari. Questo è il piano del ministro dell'Interno Angelino Alfano, d'intesa con i comuni, per affrontare questa emergenza immigrazione. Progetto ancora in via di definizione, fa sapere la Stampa, per quel che riguarda i dettagli, ma già strutturato per risolvere questioni importanti che hanno fino alla scatenato malumori e polemiche tra sindaci e governatori di qualsiasi colore politico. Questo dunque è quello che studia Alfano. Per quel che riguarda la politica, c'è da dire che le notizie sono minori. L'attualità internazionale, appunto, ha fatto, e non è un bene, ha fatto slittare tutta una serie di notizie. E allora, l'idea del PD è questa. Secondo la Stampa, sempre il referendum è sullo sfondo, il referendum per la Costituzione, far slittare il referendum a fine novembre. Era ottobre, poi a inizio novembre si è scoperto che l'8 novembre ci sono le elezioni americane, ed ecco allora che si pensa a non far sovrapporre le elezioni americane, che cosa c'entrano con il referendum, visto che non sono di domenica le elezioni americane. Ma insomma, se vincesse la Clinton, fa sapere Carlo Bertini in questo retroscena, pagina 13 della Stampa, se vincesse la Clinton, il PD vorrebbe poter contare su una sorta di effetto trascinamento della vittoria di un democratico, mentre se vincesse Trump, il PD potrebbe contare sull'effetto paura per i populismi. Voi vi rendete conto, se questo fosse vero, legare le elezioni del presidente degli Stati Uniti d'America con la necessità di votare sì o no a una riforma costituzionale in Italia? Dico, ma il morbo della pazzia è così diffuso? In Italia? Non lo so, vi faccio questa domanda. Cioè, si starebbe pensando di aspettare le elezioni americane per influenzare in qualche modo, sia che vinca la Clinton sia Trump, il voto, e far convincere gli italiani a votare in un modo o nell'altro al referendum costituzionale italiano? Non so. Meditate, gente, meditate. C'è una pagina invece di Repubblica, un bel tema che divide soprattutto a Comacchio Ferrara, e riguarda le nutrie, la carica delle nutrie divide le città. Abbattiamole, dice qualcuno. No, vanno difese, dicono altre. Toponi o roditori? Begli animaletti oppure animali da estirpare? Questo è il dibattito secondo Repubblica. Erodono i canali, danneggiano i campi, dicono ovviamente gli agricoltori, li vogliono sterminare, mentre gli animalisti insorgono. Non hanno colpe le nutrie. gli argini cedono per l'incuria. E va bene, una pagina di Repubblica. Voi dite, questa è la carta costa. Ma la carta costa è un'altra, la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. E anch'io, come il vate, il poeta Mauro Meazza, mi unisco. E l'avevo promesso e lo dedico oggi ad Antonella di Ripa Teatina. Eccolo qui, è questo articolo di una pagina del Messaggero. Non se ne può più, anche se Gianluca Nicoletti ne ha fatto una puntata straordinaria. I Pokémon Go, la realtà virtuale, la realtà aumentata, immersi nella realtà aumentata, una pagina del Messaggero, basta, vi prego, comincio a odiarli, non so neanche che cavolo siano, ma comincio a odiarli, immersi nella realtà aumentata. Ma chi se ne frega!